scendono. Rivivo quei momenti tra incubi e frammenti. Ora so che bruciano anche i miei ricordi. Rimango fermo in piedi dentro questo cerchio. Anelli di fuoco come catene mi circondano. Lampi di luce all'orizzonte si intravedono. Fantasmi del passato ora mi bloccano. Concentrato l'obiettivo principale, ora è tempo di ricominciare a dimostrare che tutto ciò che ho fatto non sia stato vano. Per questo tempo, per questo temo all'ennesimo mio scontro. Ora sento che all'interno tutto si riscalda. Devo richiamare l'ultima risorsa, eterno fuoco dentro come arma. Su loro attacchi frontali, schiero barriere stellari. Solo incubi mentali si risvegliano in me. Vecchie rovine che riaffiorano anche se i tempi sono cambiati, i suoni sempre più alterati. L'emozione che provavo allora non è più dentro una scatola chiusa. Sentimenti che si sciolgono, lacrime che scendono. Rivivo quei momenti tra incubi e frammenti. Pandora, sempre più abbagliato dalla luce, cerco la mia pace. Ora il ring è sempre più vicino. Solo come un gladiatore seguo il mio cammino. Comandato da me stesso come Massimo. Sento già l'odore del successo. Vieni pure avanti coi tuoi finti scratch. Oppure insieme alla tua gang e fa di stess. Con armi non convenzionali sfero attacchi letali. Colpisco punti principali dentro i tuoi obiettivi primari. Sento che la svolta si avvicina, la sento più di prima. Marchio il respiro per la mia nuova vita. Come l'uomo del tempo sono tornato. Ho visitato posti del passato. Memoria di quell'epoca ti ho riportato. Oggi vedi un altro giorno e sai che dietro non ci torno. Sentimenti che si sciolgono, lacrime che scendono. Sale per combattere, faccia a faccia, dopo ding ding della campanella. Sento le voci come King Sella. Ho più parole di un libro di Terence Mann. Se hai il coraggio di sfidarmi vieni qua, yeah man. Vengo dal profondo emoto, inculco la mia dottrina. Dentro centri sociali già da prima della tua venuta. Abbiamo fatto una parte di storia, adesso imparati a memoria quello che ti dico. Direttamente dentro questo nucleo estremo è la mia sbobba Jolly, se non hai capito. Sul mio cammino cenere e fuoco dentro. Sciolgono lacrime che scendono.